giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Adesione altissima allo sciopero del trasporto pubblico locale, si stima attorno al 90%, uno sciopero senza fasce di garanzia, non accadeva da 20 anni. Presidio questa mattina davanti agli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone, lo ha organizzato l'Unione Sindacale di Base USB nel giorno dello sciopero nazionale del settore industriale. Un tavolo di confronto con Unione Europea, Governo, Regione e sindacati sulla crisi dello stabilimento Electrolux di Porcia, lo chiedono i sindaci della zona. Firmato il contratto di affidamento dei lavori per la realizzazione della grande rotatoria sulla strada statale 13 Pontebbana tra Porcia e Pordenone, un'opera attesa da tempo. È quasi finita la nuova sede dell'ITS Academy di Udine. A fine gennaio 2025 375 studenti di meccatronica, aeronautica, arredo e turismo traslocheranno. Generale inserita da Forbes nella lista delle compagnie che valorizzano il lavoro delle donne con modalità di lavoro flessibile e congedi, è la prima tra le aziende italiane, la nona a livello globale. Superato dalle nuove tecniche il problema delle infiltrazioni, sui tetti si installano meno pannelli fotovoltaici di quanto si potrebbe, se ne parla a Trieste in un convegno nazionale. Ancora sole e bel tempo per tutto il fine settimana, temperature in lieve calo, la pioggia tornerà da martedì, la nostra intervista al previsore dell'ARPA. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. Ancora uno sciopero del settore trasporti, questa volta per il rinnovo del contratto e senza alcuna fascia di garanzia. Non accadeva da 20 anni, una scelta insolita, sintomo di un forte malessere. L'adesione infatti è stata altissima, si stima intorno al 90%, il quadro della situazione in questo servizio. Deposito bus pieno di mezzi parcheggiati, fermate affollate con persone in attesa, parcheggio dei taxi vuoto, i mezzi infatti sono andati a ruba e naturalmente traffico in tilt da questa mattina. Oggi tutti in macchina, durerà 24 ore lo sciopero del trasporto pubblico locale con tanto di manifestazione nazionale davanti al Ministero dei Trasporti, fasce di garanzia ultra ridotte in cui viene garantito solo un mezzo ogni 3. Una forma di mobilitazione che non a caso la legge consente di utilizzare una volta sola nell'ambito dell'intera vertenza e chi da anni lavora nel settore quasi fatica a ricordare quando è stato fatto uno sciopero di tale portata l'ultima volta. Massimiliano Novak, Faisa, CISAL. Lavoro in questa azienda da 28 anni, mi ricordo che 20 anni fa più o meno è successo lo stesso problema di contratti e quindi lo sciopero era di 24 ore. C'è tanto malessere, soprattutto per le paghe. Quando c'è un neo assunto con gli autisti difficili anche da trovare, che paghe ci sono? Purtroppo il problema principale è soprattutto la busta paga di nuovo assunto, che si aggirerà 1.350 euro, paga base. Con turni pesanti e anche poca sicurezza. Ovviamente turni pesanti e soprattutto adesso la sicurezza è quello, il punto fondamentale che blocca tante persone che vogliono intraprendere questo lavoro a ripensarci. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E oggi sono in sciopero anche i lavoratori del settore industriale iscritti all'Unione Sindacale di Base USB che a Monfalcone, davanti allo stabilimento di Fincantieri, una delle massime realtà industriali d'Italia, ha organizzato un presidio. Siamo di fronte allo stabilimento Fincantieri di Monfalcone, dove dalle 6.30 della mattina fino alle 9.30 c'è stato uno sciopero che fa parte dello sciopero nazionale dell'industria con l'Unione Sindacale di Base per difendere l'industria, salvare i posti di lavoro e aumentare i salari. L'USB si mobilita contro un'economia di guerra e a favore degli operai che raggiungono anche punte di 8.000 operai in appalto a Fincantieri. Questo sciopero si interseca con la vertenza Site, che è una delle tante aziende in subappalto qui a Fincantieri Monfalcone, che ha circa 200 dipendenti. Ne parliamo con Mario Ferruccio, coordinatore dell'USB di Gorizia. Oggi è una giornata di sciopero nazionale dell'industria. Noi come USB Lavoro Privato chiediamo l'immediato rinnovo dei contratti con un aumento salariale, diciamo, decente di circa 300 euro. perché il potere di acquisto in questi mesi, in questi ultimi anni, e con i contratti diciamo che sono fermi, diciamo, gli operai certamente non possono andare avanti. Nel specifico dei Fincantieri abbiamo un'azienda che ha chiuso, diciamo, ogni trattativa alle istanze delle maestranze, che sono punti chiari, precisi, contrattuali. Chiediamo la regolarizzazione dell'orario di lavoro, che venga pagato normalmente lo straordinario quando si supera le ore ordinarie, diciamo, contrattuali, che si regolarizzi l'orario notturno come previsto dalla contrattazione. Chiediamo contemporaneamente che si attivi, diciamo, l'elemento perequativo o, diciamo, elemento di partecipazione, che sono dei premi che vengono normalmente previsti in contratto, e inoltre chiediamo un aumento, diciamo, del buono pasto. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Istituire un tavolo di confronto che coinvolga Unione Europea, Governo, Regione, sindacati, associazioni di categoria e azienda per affrontare il difficile momento attraversato dallo stabilimento di Porcia dell'Electrolux. Lo chiedono 11 comuni dell'area, oltre a Porcia, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontana Fredda, Pasiano, Pordenone, Roveredo in Piano, Salcile, San Quirino e Zoppola, che in un incontro istituzionale tra amministratori locali che si è tenuto ieri sera hanno stilato un documento in questo senso. Per il sindaco di Porcia, Marco Sartini, 650.000 pezzi all'anno rappresentano il livello di stabilità di Porcia. Da 2 anni a questa parte, ha detto il sindaco, siamo ampiamente sotto, visto che la produzione si attesta a 570.000 unità. Nel frattempo il gruppo consiliare del PD in regione ha presentato un'interrogazione per conoscere se e quando il tavolo di confronto con Electrolux e il governo sulle prospettive della multinazionale svedese del settore del bianco verrà convocato, ovvero quali altre iniziative si intendono mettere in campo per tutelare il futuro dei lavoratori nello stabilimento di Porcia ed evitare ricadute negative sull'economia locale. Parliamo ora della grande rotatoria sulla strada statale 13 Pontebbana tra Porcia e Pordenone, un'opera attesa da tempo per snellire uno snodo che registra circa 25.000 transiti al giorno. Finalmente è stato firmato il contratto di affidamento dei lavori, che costerà 2 milioni di euro. Un incrocio strategico per il territorio, attraversato ogni giorno da 25.000 veicoli con punte di 34.000 nei periodi di maggior affluenza. La nuova rotonda sulla statale 13 all'altezza del Garage Venezia permetterà di migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. Se ne parla da 30 anni e finalmente verrà realizzata. L'annuncio è del sindaco di Porcia Marco Sartini, dopo aver firmato il contratto con l'impresa vincitrice del bando di gara per la realizzazione della rotonda. Un'opera unica di 50 metri di diametro, con una corsia centrale molto ampia, che permetterà un deflusso rapido dei veicoli, riducendo il rischio di incidenti e migliorando i tempi di attraversamento di questo snodo. La rotonda sarà dotata di attraversamenti pedonali illuminati a giorno per garantire anche la massima sicurezza a pedoni e ciclisti, e sarà collegata alle piste ciclabili esistenti e alle future tratte che collegheranno Porcia e Pordenone. Un'opera che dovrà rispettare anche criteri di sostenibilità ambientale. Ci sarà la messa in sicurezza del canale Brentano e la sostituzione della rete acquedottistica. Il costo verrà finanziato dalla Regione per 1.380.000 euro, più altri 620.000 euro derivanti dall'avanzo vincolato del Comune di Porcia. L'infrastruttura permetterà di diminuire lo smog e quindi sarà possibile, con le centraline installate, di verificare il miglioramento della qualità dell'aria. A metà dicembre ci sarà la posa del cartello di cantiere, che annuncerà entro 45 giorni l'inizio dei lavori. Porcia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Vertice questa mattina sulla Tirso di Muggia con l'assessore alle attività produttive Bini, l'assessore Rosolene e i rappresentanti di Confindustria Alto Adriatico. La Regione, recita un comunicato conclusivo dell'incontro, è pronta a mettere in campo tutte le azioni necessarie a difesa dei lavoratori e del sito produttivo. Stiamo operando per la continuità produttiva e la tutela dell'occupazione dei dipendenti della Tirso, allo stesso modo di quelli della Flex, con lo stesso impegno profuso nel caso di Varzila. Tutti i siti produttivi sono strategici, anche se la situazione di Tirso è molto diversa rispetto alle altre crisi aziendali. L'impegno, questa ancora nella nota, si legge ancora nella nota della Regione, delle due direzioni regionali coinvolte, lavoro e attività produttive, è quotidiano e ha un obiettivo preciso: salvaguardare i posti di lavoro oggi a rischio. Il gruppo Assicurazione Generali è stato inserito anche quest'anno dalla rivista statunitense Forbes nella classifica delle migliori aziende per le donne, graduatoria che riconosce l'eccellenza nell'attrarre, trattenere e valorizzare i talenti femminili, offrendo lavoro flessibile, programmi di sviluppo delle competenze e opzioni di congedo per motivi familiari. A seguito di un'indagine che ha coinvolto circa 100.000 donne, il gruppo si è classificato al primo posto tra le aziende italiane e al nono posto a livello globale nella lista delle 400 aziende più attente alle donne. Per stilare l'elenco, Forbes e la società di ricerche di mercato Statista hanno chiesto ai partecipanti se raccomanderebbero il loro datore di lavoro sia in base alle pratiche generali sul posto di lavoro sia in base a questioni specifiche di genere come l'equità retributiva, la gestione dei casi di discriminazione dei dipendenti e la presenza o meno di pari opportunità di avanzamento per le donne e per gli uomini. Il meteo, il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11, Trieste, Gorizia 15 gradi, Udine, Pordenone 14,5, Forni di Sopra 12, Tolmezzo 11,5, Piancavallo 9, Tarvisio 1,5, Monte Zoncolan 9, Monte Lussari 6,5, Grado 13,5, Lignano 13. Per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo parlato con Federico Bonaldo, esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. L'anticiclone continua a restare sulla nostra regione e porterà ancora tempo stabile fino a lunedì. Quindi nei prossimi giorni, questo fine settimana, il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso. Nella notte, il mattino, sul Tarvisiano in Valcellina si formeranno delle nebbie o foschie. Per il resto ci sarà una marcata escursione termica giornaliera in pianura, che vedrà minime tra 2, 3, 4 gradi e massime che invece si spingeranno fino a 16, 18 gradi. Le minime sulla costa sia per sabato che domenica invece si manterranno un po' più alte a 10 gradi. Lunedì continuerà a esserci tempo stabile, ma nella sera, tra domenica e lunedì, arriverà ora moderata un po' su tutte le zone orientali della regione, con raffiche anche però sostenute fino a oltre 50-60 km orari sul Carso e a Trieste. Da martedì il tempo inizierà invece a peggiorare, però ancora un po' presto per dire esattamente cosa succederà. Cosa possiamo dire delle temperature rispetto alla media del periodo? Beh, adesso diciamo che le minime sono circa, insomma, media del periodo, le massime sono un po' sopra media. Poi da domenica, da quando inizierà a entrare appunto la bora, si abbasseranno anche le massime un po', quindi torneranno in media. Dopo la demolizione dell'ex birreria Dormish a Udine sono a buon punto i lavori della nuova sede che ospiterà l'Accademia dell'Istituto Tecnico Industriale Malignani. L'inizio della demolizione dell'ex Dormish nell'agosto 2022 e lo scavo per le fondamenta nel febbraio 2023 sembrano quasi un'era geologica fa. È quasi finita la nuova sede dell'ITS Academy Udine. A fine gennaio 2025, 375 studenti di meccatronica, aeronautica, arredo e turismo traslocheranno qui da Feletto Umberto. Già si vedono gli spazi per le aule o per i laboratori con attrezzature personalizzate, le aree di socializzazione. Tre materiali costruttivi, acciaio, calcestruzzo, legno, tutti recuperati a meno di 100 km da Udine. Costruzione per moduli prefabbricati, l'energia sarà 100% da fonti rinnovabili, pannelli fotovoltaici e turbina idroelettrica, recuperando la vecchia centralina del birrificio. Dalle ampie vetrate si scorgono le rampe di accesso e i garage interrati, 120 parcheggi, 70 dei quali a pagamento a disposizione della cittadinanza. Franco Simone, direttore di progetto della Danieli. Qui sorgerà un giardino pensile, quindi un giardino, alberature, degli anfiteatro dove i ragazzi possono stazionare e anche studiare, ma la caratteristica è che sarà un giardino aperto al pubblico, perché così è stato l'intendimento tra la proprietà e l'amministrazione comunale. Dal secondo piano, accanto ai luoghi di incontro per docenti, professionisti e studenti, si apre la vista sull'ampia agorà. Un'area che sarà attrezzata con tavolini e sedie, ospiterà eventi, anche concerti, fino a 280 persone. Un anfiteatro con bistrò. La parte più visionaria, ci dice Ester Iannis, direttore del MIZ, del progetto di Gianpietro Benedetti. Siamo ai margini di un centro studi che raccoglie, penso, 9.000 studenti. Quindi diventa un luogo dove le persone che frequentano le scuole possono orientarsi verso la tecnologia, perché è la tecnologia che guidata, progettata, programmata, aprirà un futuro positivo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Fino a qualche anno fa una delle criticità dell'installazione sui tetti di pannelli solari era il rischio di infiltrazioni. Ora il problema è stato superato. Se ne è parlato nel convegno nazionale che ha portato a Trieste le imprese che si occupano di impermeabilizzazione. Se noi su tutti i tetti dei capannoni italiani provassimo a montare un impianto fotovoltaico domattina, avremmo risolto il problema di tutta l'energia elettrica costruita in questo paese e prodotta in questo paese, e probabilmente potremmo dare questa energia e venderla a un paese come la Svizzera. Non ha dubbi Stefano Zuban, rappresentante dell'Associazione delle imprese italiane che si occupano di impermeabilizzazione dei tetti. La tecnologia c'è, le superfici pure. E allora cosa si aspetta a spingere sul fotovoltaico? Se lo chiedono gli addetti ai lavori, imprenditori edili, esperti di impermeabilizzazioni, produttori e venditori di pannelli, e chiedono alla politica di fare di più. Dal momento che c'è questa possibilità tecnologica di risolvere questo problema e dal momento che tutti politicamente sono d'accordo per il risparmio del suolo e tutto, delle strade che facciano incentivare, facciano capire l'importanza del rispetto naturalmente della natura all'interno del nostro territorio. Vuol dire che le politiche che ci sono non bastano? Non bastano assolutamente, soprattutto c'è una grande carenza di informazione. Oltre a questo, ovviamente la burocrazia non aiuta. Per la prima volta il convegno nazionale dell'Associazione delle imprese italiane di impermeabilizzazione si tiene a Trieste e nella regione dei terreni votati all'agricoltura l'allarme arriva proprio per il consumo di suolo. Ivo Bozzato di Coldiretti Friuli Venezia Giulia. In questo momento qua, dato 2023, 737 ettari di copertura di fotovoltaico con ulteriori quasi 1000 preautorizzati. Ma evidentemente ai proprietari dei terreni vengono proposti contratti allettanti. Ai proprietari dei terreni viene sottoposto un contratto che le più delle volte è appetibile, ma che poi nasconde delle insidie. La tassazione che non viene correttamente spiegata al momento della proposta. E poi il futuro, cosa faremo di quei pannelli alla scadenza della loro, diciamo così, attività naturale e chi si dovrà occupare dello smaltimento. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Vincenzo Schettini, tra i professori più amati di internet, inaugurerà la seconda edizione del Festival dell'Informazione Il Mondo Fuori, quest'anno dedicato al tema Con gli occhi dei social, nelle nuove frontiere della comunicazione. Schettini, diventato famoso grazie al canale YouTube La Fisica che ci piace, può vantare sul web quasi 3 milioni di fan. Appuntamento a Cormons, al Teatro Comunale, alle 20:30, ingresso libero. Sul palco una riflessione su come i social abbiano trasformato il suo lavoro e lo stare dietro la cattedra e come possono diventare mezzo efficace di divulgazione. Abbiamo intervistato Schettini per chiedergli una sintesi del suo intervento. Il social diventa un mezzo efficace di comunicazione quando incontra intanto i ritmi e i linguaggi dei giovani, cioè deve prendere un ragazzo, no? Così come il messaggio negativo a volte prende un ragazzo, così anche quello positivo può prendere il ragazzo. Cosa succede nel social? Molto spesso la comunicazione è breve, è istantanea, è molto molto asciutta. Nel momento in cui qualsiasi tipo di messaggio rispetta queste regole di chiarezza, di asciuttezza, di snellezza, alla fine funziona. E allora quando è un messaggio che veicola cultura, ci piace moltissimo, perché il giovane è catturato della cultura, è catturato dall'informazione, si arricchisce e sta facendo un'esperienza social, sta facendo un'esperienza di rete positiva. Al di là del fatto della brevità e della chiarezza, quali sono gli accorgimenti che bisogna usare per attirare i giovani sui social e magari anche gli errori che non bisogna fare? Intanto partiamo dal presupposto che ci deve essere una tendenza personale a raccontare le cose in una certa maniera, cioè io non ho segreti, intanto io li racconto a modo mio, è chiaro, quindi evidentemente arriva, però mi rendo conto, facendo un'autoanalisi, che quando parlo di qualcosa, se di fisica, dato che quella cosa mi entusiasma, cioè io sono proprio felice quando ne parlo, chi mi ascolta, giovani compresi, si entusiasmano. Quindi questo entusiasmo è una regola basilare, perché se la gente ti sente moscio, sta moscia. Il comico illusionista Raul Cremona torna sul palcoscenico con Bravissimo, spettacolo in cui interpreta i personaggi buffi e dissacranti che lo hanno reso inimitabile. In scena, accompagnato al pianoforte da Marco Castelli, Cremona anima un viaggio surreale popolato da incontri bizzarri, da Silvano, il mago di Milano, immagine distorta del più grande prestigiatore italiano, a Jacopo Ortis, figura dall'eloquio comicamente gasmaniano. Immancabili momenti di magia, prestidigitazione, giochi di parole e battute esilaranti. A Trieste, al Teatro Miela, oggi alle 20.30, domani alle 18. Tempo di bilanci per la Fiera dei Santi di Rivignano, che si è chiusa con un bilancio che l'amministrazione comunale non esita a definire straordinario, uno degli eventi più riusciti e partecipati nella storia di Rivignano Teor. Decine di migliaia di visitatori hanno affollato le vie del paese durante il weekend, facendo di questa edizione un successo. La fiera si è distinta per la varietà e la qualità degli appuntamenti, con più di 40 eventi che hanno animato la cittadina. Tra i momenti più apprezzati, il Festival della Canzone Funebre, che ha visto una partecipazione di oltre 300 persone. Finisce qui questa edizione del giornale Radio Regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In regia, per la parte tecnica, Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.